It's time now for another quadro dei verbi. In this verb box, you'll hear again some personal pronouns. The words for I, io, you, lei, he, lui, and we, noi. We'll spend some time on those pronouns later in the course, but for now, listen to them in context with the verb essere, to be. Io sono. I am. Io non sono. I am not. Lei è. You are. Lei non è. You are not. Lui è. He is. Lui non è. He is not. Noi siamo. We are. Noi non siamo. We are not.